come niente. Fatente merda. Hai scettato, sì. La voce da piezze fesse. Dai, hai capito? Stronza. Ma vedi se io mi aveva sposato una canzone senza un marito. Augusto? Augusto si chiama. E va pure dicendo che è un uomo d'imperatore. E già se credeva fa un resto, un mezzo chiocchiera. Augusto? Vuol dire se a prima mattina già in frega lo stuorze marito. T'ha già riempito le mazzate. T'ha già fatto la faccia e cacre. T'ha già scommai sangue. Ah, ti si è alzata. Bravo. Vieni a ca, non fui. Non può fui, non te ne può uscire già prima vattere. Oh, dopo mi ha già fumato un sicario per soddisfazione. Dici la verità, a mattina ha cominciato a maniera dopo una bella mazziata, è vero? Che avete fatto male? No, ma quando mai, con due buffa. Pur miracoloso me l'aveva trovato sto marito. So paccare d'amore, e come si delicato. E se ti battevo veramente? E se ti batteva nom? Ah. E che volesse ricerca, so peggio e non. E so cosa si dice la moglie. Mi ritappurizzavo, cavo, se no ti faccio sputare tutta dentiera. Sei fatto male, oh, creatura. Ma sei propriamente fragico. Va. Caso senti che porta l'ira a casa. Certo che sono la vannara, perché qualcosa. Se tenessi qualcosa a ricerca, un coppa a fatica mia. Pellecchia, questa sì, una pellecchia fumarole, parla pure, tenete un viso, e pellecchia rapa una bocca e tenete una ciata. Va, non ti fa avere fine stasera, Robby. Augusto Ginnicò, vero tu che nom? E io mi chiamo Teresella Ginnicò. Che schifo. Mamma invece mi chiamava Fravolella. Eh sì, perché tengo sta bocca e fravola. Poi sono passata l'anno, la gente mi vedeva un poco nervosa e mi hanno iniziato a chiamare Fravella. Scostumata. Ma però mi ha già abituata, mi piace pure. Fravella Ginnicò. Sapesse firmare, scrivessero nome mio torno. Frevella Ginnicò, Frevella Ginnicò. Donna Frevella. Onna Frevella, onna Frevella, onna Frevella, onna Frevella, onna Frevella, onna Frevella. Cumà! Cumara! Attendisa. Casta onna Frevella. Uè, e tenete in mente, thank you. così l'avete conosciuta. Sono cose che raccontarne solamente uno poi fatica a crederci, eh? Bisogna che abbiate pazienza con la signora Teresella. Io vi potrei dire che non è cattiva, certo, un poco scostumata però. Voi mi perdonate, non è vero? Certo, io non me la posso portare in giro. Adesso per fortuna non è più con me. Ma allora, allora sì che era un problema. Era una stanza modesta quella in cui abitavamo all'epoca. Emanava cattivo odore d'aceto da pochi centesimi ed era piena di mobili consumati. L'unica casa che io mi fossi potuto permettere da sposata. Poi la mattina noi ci alzavamo, no? E il compito di svuotare il vaso toccava sempre a me, toccava. E intata pisciazzo la nuttata! Vedete, lei si esprimeva così, si esprimeva. Le buttata fuori rociardino! Ma cara, così finisce in casa dei signori Pagliuca. E chi sono fottere i Pagliuca? Che la mezza cosa smerza e chi lo ricuttare? Ma cara, sono persone rispettabili, pure se vendono formaggio. Ma tu viri se noi ma sta presa a sti due muzzare all'aro, ietto stupisce e muovito. Avrete capito che quella, mia moglie, la signora Cinnicò, la prima cosa che faceva una volta alzata era alluccare con tutte le sue forze, insultare e menare le mani. Ma non risparmiava nessuno, Anche se il suo preferito ero io, era. Tirava certi urli che pareva una sirena della polizia, se potete capire. Aveva questa voce, una voce forte, che svegliava tutta via Solfatara, dove appunto abitavamo prima della guerra. Mi dicevano che si sentiva da Napoli a Pozzuoli e che tutti quanti sapevano a che ora ci svegliavamo e quando la mia signora cominciava la sua giornata. Era come un avviso della EIAR, un comunicato del duce. Arrivava via Edere e toma toma, cacchia cacchia, si spargeva sulla terra infuocate degli dèi. Sui campi flegrei, capirete, cascurno, amo topiglio bì, augù viene a ca, dire che tengo poco tempo poi a già alla va, viene a ca, non mi fa incazzare, sta casa è tutto nufito, non sai fa manca servizio, vira via, c'è sta una zoccola. T'ha già cidra! Madonna, mi intronava di mazzate tutte le mattine. Voi direte, e perché non ti difendevi? Io ci ho anche provato a difendermi. Poi ho desistito. Mi intronava di mazzate. I paccheri di... Ma voi non sapete che cos'erano i paccheri di Frevella. Erano buffi dati a palmo aperto con entrambe le mani. Mani da operaia. Anzi, da lavannara. Poi spesso mi sgommava di sangue, mi squaracocchiava in capo i suddetti rinali. Avete presente quei rinali belli con la recchia, fatti di ceramica pittata a fiori, ceramica di vetri, regalo della povera mamma mia per il felice matrimonio. E se non era contenta, terminava la mazziata con i rami per la stufa. Io mi vergogno a dirlo. Ma sapeste quante volte io restavo steso a terra, nella strada lercia di fango, oltre la soglia di casa, e il sangue che scorreva sui gradini, il sangue mio, che poi sono anche sempre stato anemico. Lavannara, fattucchiera, lavannara. Ma io ero sicuro di meritarmele quelle mazzate, sì, perché io assistevo alla furia di Frevella, come si assiste a un evento naturale. Pentate al Vesuvio che esplode. Potete mai giudicare voi il Vesuvio che erutta? Potete mai dirgli non si fa? Potete mai dirgli pezzi di assassino? No, quelli turisti un tempo ci venivano apposta per vedere il Vesuvio che eruttava. Era una meraviglia, una curiosità. E così era pure Frevella. Le veniva una febbre alta, mistica, che saliva dai cannelli delle fumarole della Solfatara e allora si estingueva quando mi facevo lo sgambetto finale. Mentre io, sporca e zozzusa, tentavo di riconquistare la soglia della porta di casa. Scapitozzavo con la capa sulla spalliera della seggia di legno. Mormoriavo qualche cosa e me ne tornavo a letto fino alle 3. Ero disoccupato. Kill è una mogliere che peggio è Musolino. Sulla via Solfatara mi sfottevano tutti e ci facevano pure un complimento al duce come a Frevella, in quanto tutti sulla strada dove abitavamo erano fieri fascisti tesserati. Quindi mia moglie teneva ragione Vox Populi, che si era sposato un fetente di ragioniere, e quello io cioè, si era pure fatto licenziare e si era messa a letto senza più intenzione di faticare. Pure c'era stato un tempo in cui io l'avevo amata. Signore, io sono contenta! E quella questo mio tiene una passione per me, ha tutte le qualità, un lavoro serio e certo fai ragioniere. Fosse che la smetto come a mamma mia di lavare i panni e me ne sto a casa a fare la signora in grazia di Dio. E poi non me lo merito io. Ya, guardate qua, manco un poco di panza. E guardate qua che zizi, amma, quale ragioniere si sposa a certi zizi, ditemi voi. La prima volta a Santa Lucia, la prima volta che ci conoscemmo, io andai per comprare il pesce, no? Certi scorfani buoni per la zuppa. E esse come me bene, con un cuore umano. Che re avevo chiesto io fittiandolo? Ma Girbera, mi ha rispondetto, un uomo strevez. Ma che bella Girbera, rispondetti io. Mai bella come a voi. E certo, è che era uno struppone, ma questo non c'ho di certo. Ha rispondetto, grazie mio sì, corpo di trono, come si dice. Ah no, non è trono, è il fulmine. E vabbè, come è una fase difficile. O correte, e ha m'accattato tutto cosa. Lenzuola ricamata, vestiti su misura e mutandoni di crocre, non ci manca niente. A festa, a San Giovanni a Teduccio, un bello ristorante, maccheroni su che burro, arrosto, friariello, patano, vongolo, Sara che pure una canghera e torto grosso con manuciuccio. Con mamma songa assistimata, quanto è bello Agostino mio! Poi però l'ufficio privato presso il quale lavoravo era stato chiuso. Il signor Van Alsen, un distinto signore olandese, che lo gestiva dal 1901 e non si trovava più bene in Italia da quando c'era il fascismo e se n'era voluto tornare all'Aia. Manca a me il fascismo piaceva e intanto a 47 anni un altro lavoro io non l'ero riuscito a trovare. M'ero messa a fare di tutto, e avevo cercato di fare i cioccolattini, ma mi venivano amari, e i muri, ma mi venivano storti, pure le mozzarelle, ma il latte mi si raggrumava sotto le dita. Io sapevo lavorare solo di concetto. Con le mani nemmeno una giratina nel caffè mi veniva bene. E di lavori di concetto a quel tempo non se ne trovavano. Io mi ero rassegnato. Frevella sapeva fare la lavannara. Un poco di mangiare a casa lo portava e a me toccava starmi zitta e pigliarmi le mazzate. I figli dite. Meno male che di mettere incinto quella cosa infuocata di mia moglie manco mi era riuscito. Altrimenti sarebbero nati con sicura probabilità eserciti di altri infrevati. Ma che vale, ditemi, moltiplicarsi, spargere per tutta via solfatara pezzulli di incapacità, ragionierini antifascisti che la loro madre avrebbe mazziato quotidie. Io in nulla ero d'accordo con il fascismo e la razza ariana mia e di mia moglie era proprio meglio se si estingueva. Qualche volta, quando dormivo però, io glielo dicevo, volessimo fare finta di essere ebrei. Così ci eliminano, ci rastrellano. Poi però mi pentivo, e sono cose che si dicono nella miseria, nella disperazione, capirete. L'unica cosa che a quei tempi mi teneva in vita era parlare col mio amico Sbraggia. Ci vedevamo tutti i giorni e ci incontravamo sempre nella stessa trattoria, a Bacoli. Quando va tutto in alto voto? No, ma quando mai? Ah no, e tenete l'occhio coperto con qualche ragione. E un bruscolino. Ah, che brutti cerchi che fanno i bruscolini. Che grande amico che era Sbraggia. A questo punto della questione scuoteva il capo, no? Poi preparava una lunga e lenta scatarrata e faceva uno sputo ben piantato al centro della strada, equamente composto di tabacco e muri. Sbraggia diceva che facevi il commerciante. Sì. Nel senso che commerciava a seconda delle stagioni. Lupini, mandorle zuccherate, pere di musso, cioè piede e musso di maiale. E specie d'estate acqua forte, acqua limone e bicarbonato. Io non mi sposo a raggia mai! E facita buona, almeno perdo i denti con vecchiaia, non me li fa cadere la mogliera a furia di mazzate. E vabbè, meglio questa che una cannonata. Noi ci vedevamo soprattutto perché ci piacevano i libri. L'astronomia, la letteratura, pure la storia. Certo, quattro cose avevamo letto in vita nostra, però il ragionamento ci piaceva. E soprattutto fra quelle quattro cose noi conservavamo accuratamente nascosti Gramsci, Marx, fogli antifascisti. Conservavamo quell'umile e semplice sentimento di libertà che entrambi sentivamo e che la vita ci aveva negato. Che eravamo antifascisti lo sapevano tutti e ci sfottevano. Quando ci infervoravamo, no? Rischiando di dire troppo. Io... Careau, parite un work. Vedete un poco se quella povera moglie vostra vi deve sopportare brutto come siete. Tiene ragione a battervi. Poi però si sentiva un gracchiare di radio. Allora una voce risuonava e leggeva i comunicati della Eiar. Quindi si sentiva quella di Mussolini. Italiani! A questo punto Sbraggio, non potendo dire come avrebbe desiderato, tienda stupiavoc, ci metteva subito di difendere mia moglie e la rendeva oggetto della sua furia. Ah, che la grande ciacca le moglierta! Poi bevevamo un poco di bianco d'Ischia e il discorso cambiava. Voi e io, Cinnicò, non siamo fatti per questo mondo. Non ci possiamo abbassare ai piedi e al muso del maiale come faccio io. Ah. E che cosa vi picchia vostra moglie per i denari? Per le mutande ricamate che non le potete accattare? Vabbè. E che siamo gente da cose terrene noi? Noi pensiamo al cielo, alle stelle, ai corpi celesti. Pensiamo alla luna, ci dico. Voi che dite? Si può andare sulla luna. Io, alla luna, ci pensavo sempre a quei tempi. C'erano notti che nel letto io non potevo stare perché Frevella mi buttava giù a colpi di culo, dormendo. Non se ne accorgeva neppure, tanto che mi odiava per non averle dato la vita di signora che desiderava. E allora io mi trovavo grinfiato ai piedi e alla testina del letto con le unghie e con i denti. Mi alzavo, me ne andavo sotto la finestra e guardavo per l'appunto la luna. Qualche volta mi pareva un buco, fatto con le forbici da una mano gigantesca di cui un dito aveva fatto cadere il ritaglio. Era così. Dietro al telo nero della notte del mondo c'era dunque una luce enorme che passava solo da quel buco. E come poteva essere? E perché non la vedevo sempre? Altre volte invece mi pareva che la falce crescente o calante fosse l'unghia del dito di Frevella. Un'unghia a falce di luna, appunto, bianca, sottile, che indicava ora a destra e ora a sinistra, ora a nord e ora a sud, e che indicava. Ma altre volte ancora invece mi pareva che il cielo avesse per moglie una Frevella pure lui, che gli faceva gli occhi neri coi cazzotti. Solo che il cielo, essendo già lui nero, gli veniva un ematoma bianco, la luna appunto. Però io queste cose a Sbraggio mica le dicevano. Noi parlavamo di corpi celesti, di asteroidi, di pianeti. Non che io ci capissi niente, però Sbraggio ci piaceva assai. Io gli spiegavo che la luna simboleggiava Diana, che era anche considerata la dea della caccia, la dea delle streghe. Ah, ma allora è pure la dea di vostra moglie. Fu questa frase che mi era entrata nella testa e non era uscita più, come un ingranaggio che faceva Trotro, vostra moglie Diana, le streghe, vostra moglie Diana, le streghe. Fidanzato mio non è moderno, le piace l'Ottocento. A me mi piace invece il Novecento. E tutte i giorni c'è mantusca. Ho vestito e scollacciato, la spaccata non mi va. Ho russetta, sigaretta, i calzoni alla maschietta. Niente che sto papere, che lo possi non ammazzè. E invece proprio che sti voglio fa, voglio fumà. Ho russo un coppo mussa, già tenè, che male c'è. Sulla spiaggia di Coroglio me ne vado a passeggiare, andare in coppe scoglie che profumo di lilla. Ah, quanto è bello il Novecento! Ah, che profumo a libertà! Marò, Anam, anam ro purgatorio, pigliatemi, pigliatemi. Scunzulat, scunzulat. Ammunnezza, ammunnezza. Due carote per piacere. Datemi una sorsa d'acqua e carota, l'aglio, pietà foro piscio. Fillo chiavaca. Anama, anama purganda, anama inzerrata. Sta venendo. O capo, io già parlato con capo. Che li scemo, due scemo. O capo, è tutto quanto. Ha già parlato con is. Ma per coca. Tenga a dire una cosa. Vedi che è nato, vedi che è surdato, vedi che è fiamma, che so, per coca infugato. Ma quando mai? Onamari so bomba, che la so bomba. Anime e fiamma l'inferno. Ma ro se sta a guerra. C'è sta a guerra. Scunzulata, povera a me. Pollecchio. O cazzuno, strunzo, non sa che fa. E a fine. Ci devo parlare con capo, solo capo può sapere. Vanno fa guerra! Capito che questo evento notturno si ripetesse regolarmente per 2 settimane. Mia moglie aveva delle crisi notturne come non le aveva mai avute. E in queste crisi aveva delle visioni e diceva delle cose strane. E intanto il mio cervello di notte lavorava, tru-tru-tru-tru. Verso la fine del mese, Hitler venne a Roma a fare visita al suo nuovo alleato, Mussolini, perché l'Italia entrò in guerra con la Germania. E la visita si sarebbe prolungata fino a Napoli, dove era prevista una dimostrazione sommergibilistica. Tutto il golfo si sarebbe riempito di sommergibili. Ma la radio non diceva solo questo. A Licola erano iniziati gli scavi d'archeologia, roba antica insomma. Prima il duca di Blacas, poi è arrivato un grande archeologo che però solo a nominare la gente si grattava e quindi evito pure io che già 18 qua ne tenga assai. Insomma, era stato trovato niente di meno che l'antica Cuba, quella di Enea, di Virgilio, della Sibilla. Era stato trovato proprio l'antro della Sibilla. Il posto cioè dove il mio poeta preferito, Virgilio, aveva visto e sentito fare i vaticini dalle vecchie maghe. Ma la vera notizia non erano né sommergibili né Cuba. La vera notizia era che a Hitler ci piacevano assai le cose misteriose, esoteriche. Sbraggio mi aveva raccontato che quel grandissimo cornuto aveva spedito la SS in Tibet a cercare il regno perduto di Agartì e che se ne andava a cercare il lance di Longino, quello che aveva trafitto a Gesù Cristo in croce e che faceva pure le messe nere. E che quel festa appanzuto di Mussolini, per fare buona figura, gli aveva promesso una visita all'antro, una visita a Cuba. Chiunque di noi l'avrebbe fatta di giorno la visita. C'erano rami, sterpi, vivere, pietroni. Ma Hitler aveva insistito per farla di giorno, perché diceva che gli oracoli si sentono al tramonto quando la notte avanza e il buio scende. Sbraggio! Sbraggio! Non ci vuole un cazzo, è facilissimo! Noi la portiamo là, addormentata, e quella dai numeri per Hitler e Mussolini, e noi ci facciamo pagare! Un vero oracolo! L'oracolo di Frevella, ispirato dalla luna e da Diana, la dea delle Ionare e delle fetenti come lei! Come voi che state dicendo? Quelli ci arrestano tutti, ci mettono sotto al torchio e scoprono pure che siamo comunisti e che pensiamo all'astronomia invece di fare i fascisti tesserati. Ma voi non state bene, figlio mio, e poi vi volete imbrogliare proprio a Killa che stanno in coppa a tutto. Bevetevi un poco di vino, poi voi a quella moglie vostra, poveretta, un poco di bene ce ne volete pure, no? Un poco di amore le porterete. Ma quale amore, spraggia? Quella ci fa fare i denari! E noi ce li pigliamo pure da quelli che schifiamo di più, una soddisfazione col botto! Vaffanculo grande come una caserma intera, vanno fa la guerra e noi ce la facciamo fare a modo nostro. Mi preparai per giorni. Avevo preso informazioni sulle date e sugli orari della dimostrazione sommergibilistica lungo via Caracciolo. Poi mi ero fatto dire quando sarebbe dovuta accadere la visita notturna a Cuma. Quindi mi ero procurato un birroccio con degli abiti da teatro smessi da una compagnia di giro. Poi avevo comprato lumi e candele per fare luce e infine ero riuscito a farmi dare l'indirizzo di colui che avrebbe guidato la visita del duce del Führer all'antro della Sibilla, il colonnello Luigi Marasca Salmas. Il colonnello abitava su Viale Ena, in una bella villa con giardino, proprio di fronte al mare. Mi aveva aperto una cameriera con la Cristina e il colonnello mi aspettava dietro una lunga scrivania di mogano ricoperta di riproduzioni in bronzo di opere pompeiane, ninfe, satiri, bacchini, in una stanza tutta tappeti e brolocchi pesanti alle pareti. Vengo, signor colonnello, per proporvi un affare. Sì, signore, un oracolo provato e garantito. Sì, sì, potrebbe, signor sì. All'ora di pranzo io camminavo lungo viale Elena nella gloria del sole Dio Apollo, freggiato dall'autorizzazione ufficiale a effettuare il mio piano. Hitler voleva senz'altro consultare la Sibilla Cumana. Io ero felice e determinato. Mancavano solo 2 giorni. Ah, Cassuon. Stasera è come se avessi pippato 3 litri di vino. Ah. E invece sull'acqua in sta casa per colpa di sto scornacchiato magnapana a tradimento. Non già faccio mancata da nu pacca, ma io di mano te corc. Cicale. Grilli. Civette. Fruscini. Oh, topi. Lanterne accese e padelle romane lungo il percorso a sezione trapezoidale della grotta della Sibilla. Il corridoio dei vaticini è lungo. La sala dei vaticini in fondo è piccola. Frevella è stesa su una coperta e sui vestiti di scena sono state calate foglie secche e marce. Io mi aggiro in punta di piedi a ciò che nessuna luce si spegne. C'è la luna piena. In un angolo sbraggia con un turibolo rubato in chiesa fra le mani. Di lontano si sentono arrivare le camionette. 2 motori. Un rombo attutito. Sotto la grotta, che almeno 100 metri più in basso, c'è il mare. La risacca è amplificata dalla conca naturale. Ah, quelli greci erano furbi. Si sentivano arrivare le navi senza guardare il mare. Si sentivano arrivare le voci dalla spiaggia. Frevella nel suo letto di foglie da culate a vuoto. Passi. Passi di stivali. Parecchie palle. Saranno in compagnia. Tanti soldati. Si avvicinano. Si fermano. Stanno là. Sbraggia vorrebbe chiudere gli occhi e tuffarsi nel cappotto, ma non ce la fa. Si sentono voci. Voci forti in italiano, in tedesco. Ordini. Comandi. Salmas mi chiama. È tutto pronto, eccellenza, ma bisogna fare piano, piano, per carità. Oilà, noi, o curta. Gesù, quando è basso sto stronzo. E c'è sta pure chi lo canzone è merda. Diana, Trivia, il Dio sovrano e signore, Madre Matute, Elfi, venite a me! Altrimenti sono fottuto. Non succede niente. Sbraggia, sempre protizzato. Hitler e Mussolini fissano Frevella. La luna si copre. Qua a mezzanotte è passata, mia moglie dorme. Altre che profezie. Domani mi faccio scommare di mazzare, tanto vado in prigione. No, no, io muoio prima. Fate a te, non ti scordai me. Hitler comincia a mormuriare. Mussolini si agita un pochino. Qua finisce male, anzi malissimo. Le foglie si muovono. Ecco, mo parte. Era partita una grande pereta. Una scorreggia colossale che aveva spostato pure le foglie. Ma però, miracolosamente, aveva iniziato. Mussolini si avvicina e tende l'orecchio molto colpito. Hitler si sta facendo tradurre tutte le parole scombinate da un attendente lungo e biondissimo. Ah, Frevella sta dando il meglio di sé, eh? Insulta tutti. E l'attendente traduce tutto puntualmente. Salmas è vicina a Mussolini. Capo, io ho già parlato con capo. Ho me niente, fatenda, tutte e due. O curta e o baffa. O baffa è peggio ancora. Vega la guerra, anima mia, vega morta, vega gente, Gesù quanta gente, vega i forna. Ma con me? La gente trassa se la va e non piesce più. Sono cara né casa, e bombardamenta. Maronna mia, due per coca e carota, l'aglia, anamoro purgatoria e creatura, mora né creatura. Sconsolata, sconsolata, e treni di né gente. Ma voi sta guerra ha perdita. Ha perdita. Oh, prima se ne io fui baffetto. Preso una cippa cendrella di fuierella e a passo dell'oca si fece tutta la grotta della Sibilla e dietro di lui tutti i soldati con la svastica sul braccio. Trotto, trotto, trotto, trotto. Noi italiani non ci faremo intimidire dal rio destino, nessuna profezia ci farà conigli, a noi! Puro chiattone si facette arreta, e puris fuien. Salmas, prima di fare pure lui lo svanimento, facette cadere in terra una borza chi ne i soldi, e s'apparai con buio. Veniva il sole, veniva odore di mare, odore di sale, odore di casa nuova, ingoppa a posillipo, tre camere e cucina. Fredella, Iago, ma com'è che ci troviamo a mezza via? Ci siamo fatti una passeggiata per pigliare frisca. Respira, Frevella, l'aria è cagnata.